Sabato 4 marzo, CSOA, ex SNIA, via Prenestina 173, Stand Your Ground Fest, parte seconda. Oi e Punk a sostegno di Radio Onda Rossa. Torpedos Roma, Radio Onda Rossa e il CSOA ex SNIA Viscosa sono lieti di presentare la seconda edizione dello Stand Your Ground Fest. Dalle ore 19, concerti con Fun, SPQR Oi from 80s, Bull Brigade, Motor City, Oi, Torino, Affluente, Fondamentalismo Hardcore di Ascoli Piceno, Tull'Amore, Celtic Punk da Pavia, Assedio, HC Banale, scontato dalla Tuscia, The Unborn, Street Punk Horror dalla Tuscia. Entrata 5 euro a sostegno di Radio Onda Rossa. Sabato 4 marzo, CSOA, ex SNIA, via Prenestina 173, Stand Your Ground Fest, parte seconda. E non pensare che non ci torno mai. Quando si è ricerca di quegli occhi, con i miei stessi sogni e stessi guai. In questi giorni sono in programma numerose espulsioni dal CIE di Ponte Galeria, l'unico in Italia con una sezione femminile. Le donne e le persone trans recluse resistono ogni giorno all'oppressione del patriarcato, che le vuole deboli, ubbidienti e vittime, così come alla violenza dello Stato, che le rinchiude e deporta sulla base di interessi puramente economici. Tra loro c'è Olga, una donna ucraina, che nel momento in cui si è rivolta alle forze dell'ordine per denunciare le violenze agite da quello che era il suo compagno, è stata rinchiusa nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, perché la sua condizione di irregolare ha prevalso sulla sua richiesta d'aiuto. Non si tratta di un caso isolato. Ogni giorno le donne senza documenti devono vivere sulla propria pelle gli effetti di questo Stato che le umilia, le sfrutta, le criminalizza e imprigiona fuori e dentro le mura infami di un CIE. Non chiediamo allo Stato di difenderci dalla violenza che esso stesso produce e di cui si nutre. Quello che vogliamo è continuare a sostenere le lotte di chi a tutta questa brutalità si ribella, di chi resiste nei CIE, di chi si oppone alle deportazioni. Quello che vogliamo è la libertà per tutte le donne recluse e per tutte e tutti. Se toccano una, toccano tutte. Resistiamo insieme all'età delle deportazioni. Sabato 25 febbraio, presentazione dell'opuscolo Sans Vesse e Manganel, un approfondimento critico sul Predappio come attuale mecca nera del neofascismo. Da qui rani scemi per l'Aquila Chiamonte, non servono avanguardie. A seguire, concerto collabile Stante di Vuoto, progetto acustico dei Contrasto, e aperitivo a sostegno dei compagni e delle compagne coinvolti nell'ultima indagine repressiva a Firenze. Ciò che manca per campare, perché stiamo a guardare. 100 fiori sono sbocciati. Dalle 17 in poi a NED, punto solidale Marranella, in via Duccieri 211. Vi aspettiamo. 100 fiori sono sbocciati. 100 sono 100 gruppi armati. Compagni partigiani, migranti ed operai. E per voi tu lo chiamo ancora oggi più che mai. Conflitto in un sistema caricato il capitale. E attira sul presente con le scelte. Non delegare, partecipa. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine, e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Non delegare, partecipa. Ventuno e sei minuti primi. Tornano in diretta le trasmissioni di Radio Onda Rossa sull'87.9 in FM della banda romana e laziale. Benvenuti e benvenuti all'appuntamento del martedì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 circa con Do It Yourself Invasion. Brevemente i contatti della radio. Potete ascoltare Radio Onda Rossa anche in diretta streaming attraverso il sito raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati con tutte le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. Nonché attraverso il sito potete contribuire alla vita di questa radio andando a cliccare su Sostieni. Sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate, tra le quali lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01. Intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma. Oppure potete passare qui in radio per una sottoscrizione libera o per acquistare la Scarceranda 2017, ancora disponibile qui negli studi di Radio Onda Rossa. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info e quindi per proporci le vostre autoproduzioni, nonché segnalarci iniziative. Anche le offese sono ben accette, eh? Invece il telefono della diretta è sempre lo stesso. Lo 06 49 1750. Ed iniziamo le selezioni con uno split. Spritz su 7 pollici, Raugers e Cospirazione, dal titolo Distruggere ogni muro. Un 7 pollici benefit per gli arrestati e le arrestate al corteo del Brennero contro le frontiere del 7 maggio scorso, e dove centinaia di persone che hanno posto il problema della frontiera, della militarizzazione massiccia delle frontiere, appunto, della libertà di movimento, di un'idea di Europa diversa rispetto a quella fatta di confini impenetrabili dai popoli in fuga. Questi sono i Raugers e questa è la loro Distruggere ogni muro. O meglio, dello Split Distruggere ogni muro. Questa è la traccia Soffio, e a seguire Voce Raugers. e dopo i Raukers da Desenzano del Garda. Sull'altro lato del sette pollici, distruggere ogni muro. Ci sono da Milano in cospirazione. E quindi questo era lo... Questi erano i Cospirazione dallo split con i Raugers, Distruggere ogni muro. Un bel 7 pollici con copertina apribile che diventa poster. Una coproduzione di più di 20 coproduttori italiani. Siamo in vena di passare 7 pollici questa sera. Questo è uscito qualche tempo fa. Uscito nel 2014. Loro sono i Dilution. Con Adam dei Sick, dei Tired alla voce. Pompeo alla chitarra. It Mosh Taste the Floor. Eccetera, eccetera. Il buon Paguro dei Disforia. Al basso e Capò alla batteria. E questo era il primo 7 pollici dei Dilution, usciti l'anno scorso con un secondo 7 pollici. E ci spostiamo a Trento. Andrea batteria e voce e Marcella bassa e voce. Loro sono i Gufo Nero, usciti sempre da pochissimo su 7 pollici totalmente bianco, dove spicca appunto un gufo nero. Sempre su 7 pollici, questi sono i Gufo Nero, ci ascoltiamo un paio di tracce. We'll be right back. un altro 7 pollici, questa volta dal 2011. Warpath Nice. E loro sono appunto gli Warpath nel dilagare della follia. Questo invece è l'altro lato dedicato a Nice, da Foggia, libertà senza colore. We'll be right back. Allegato! Sono sicuro, posso finalmente partire. Mostrare le scorte, tanti gli aspettati. Ma perché mi siamo solo, la giustizia non manca sul palco. Diventare nato. Diventare nato. Diventare nato. Ci siamo, cogliamo l'occasione per salutare Ulderico dei Cani del Verano, che ci ha gentilmente offerto in sottoscrizione questo 7 pollici, quindi Warpath e Nissa. Appunto qui Ulderico in versione bassista. Vabbè, come suo solito, eh. Una dipendenza dopo l'altra, perché mi succede per fare di fuoco. Una dipendenza dopo l'altra. Allora, già sotto va un altro split. Loro sono i Nido di Vespe da Lucca. Qui con un 7 pollici con i Merciless Precision. Un gruppo inglese da Bristol, se non erro. Allora, questa ce la riascoltiamo da capo. Loro sono i Nido di Vespe e questa è la loro Intervalli di Vuoto. Ce la facciamo, eh? Vincere! E questi erano i Nido di Vespe, veramente convincenti dal vivo, una bomba. E quindi sull'altro lato del 7 pollici ci sono i Merciless Precision da Bristol. Beh, loro non hanno bisogno di presentazioni, però li presentiamo uguale, eh? Sarda alla voce, Totino al basso, Jimmy e Cana alle chitarre e Gabba alla batteria. Loro sono i Gas Attack. Sempre reduci del loro ultimo concerto, però noi non ci crediamo. Qui sempre da un 7 pollici, and now for something morally wrong. We'll be right back. vertice di tutta l'attività sta il culto, attraverso il quale il cristiano si trova nel giusto rapporto col suo creatore e redentore. Il centro del culto è l'azione eucaristica, in cui si rinnova il sublime atto cultuale del Signore, la morte sulla croce. Vabbè, insomma, la strumentazione qui prende vita. E decide di interrompere gli anti-monitor. Giuro, Qui gli affluente con in uno split con i Monkeys Factory, uscito nel 1995. Questo per ricordare che il prossimo 4 marzo alla CSOA ex SNIA a abbiamo organizzato questa iniziativa di autofinanziamento insieme a Torpedos. La seconda edizione dello Stand Your Ground Fest, appunto con affluente i fan da Roma. Sull'amor da Pavia. Gli assedio della Tuscia o Serpentara. Il gruppo occulto street punk horror della Tuscia, i The Unborn. E i Bull Brigade della Motor City. Quindi il prossimo 4 marzo al CSOA Ex Snia. Vabbè, noi riproviamo a passare gli anti-monitor. Dallo split con i Nofu del 2014, anti-monitor, questa è la loro Automi. Fatto da tempo che non scorre mai. E questi erano i Nofu da Roma. Prossimi a pubblicare il loro nuovo lavoro. Un assetto delle cazze! Dal titolo Interruzione, e che vedremo dal vivo questo venerdì. In concerto insieme a Into the Baobab. Tacita e Shockwire. E noi passiamo gli Into the Baobab. Dal loro secondo lavoro, Verdi Acidi Pensieri, uscito nel 2012. E quindi da Bologna Into the Baobab, queste le loro sottoculture unite. We'll be right back. se noi sia le nostre vite. Sono culture, sono culturite. Sabato 25 febbraio, presentazione dell'opuscolo Sans Vesse e Manganel, un approfondimento critico sul Predazio come attuale mecca nera del neofascismo. Da qui rani scemi per l'Aquila Chiomonte, non servono avanguardie. A seguire, concerto collabile Stante di Vuoto, progetto acustico De Contrasto, e aperitivo a sostegno dei compagni e delle compagne coinvolti nell'ultima indagine repressiva a Firenze. Ciò che manca per campare, perché stiamo a guardare. 100 fiori sono sbocciati. Dalle 17 in poi a NED, punto solidale Marranella, in via Dulceri 211. Vi aspettiamo. 100 fiori sono sbocciati. 100 sono 100 gruppi armati. Compagni partigiani, migranti e dove ormai. E un tempo in cui lo chiamo ancora oggi più che mai. Confonizia un sistema caricato e capitale. E attira sul presente con le scelte. E questo appunto era lo spottino che va a ricordare l'appuntamento di questo sabato 25 febbraio al NED, punto solidale Marranella. Vabbè, stavo cercando l'indirizzo del NED, non lo trovo. Comunque in zona Marranella. Appunto un aperitivo benefit. E poi a seguire il concerto con il Labile Istante di Vuoto da Cesena, il progetto acustico dei Contrasto. E appunto ci sentiamo ora il Labile Istante di Vuoto, questa è la loro Politica e Rivoluzione. Giorni che passano e lasciano come proiettili, giorni carichi a salve, muovono labili, istanti di vuoto, come formiche impazzite e confuse in un temporale d'agosto, viviamo tempi mancati, tempi irrisolti, con quali proposte, andamenti, fumi davanti e gabbie. Giorni che passano come proiettili, giorni carichi a salve, segnano labili, istanti di vuoto. Frammenti a ricomporre in traccia, frasi inesistenti. Frammenti a ricomporre in traccia, incertezze. Conflitto, appartenenza, famiglia e relazione, politica, rivoluzione, carcere e frontiere, lavoro e istituzione, politica, rivoluzione. We'll be right back. vecchia politica, rivoluzione di sotterrare il ferro, vecchia soluzione, politica, politica, rivoluzione. Questo è appunto Il Labile Istante di Vuoto. Questo sabato al NED, appunto, Soli delle Marranella. L'indirizzo l'abbiamo trovato, via Dulceri 211. Secolare soggezione, immobile, miseria, vivente prospettiva di rivolta. Allora, 22:25. Andiamo a chiudere così la puntata di Do It Yourself Invasion di quest'oggi. Terrore, sequestra eterna dello status quo. L'azione di disturbo resa il villico cosciente non più sotto missione. E quindi grazie ad ascoltatori ed ascoltatrici di disturbo resa il villico cosciente per la pazienza e attenzione. Stefano Pelloni. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano dietro le sbarre. Secolare soggezione, immobile, miseria, vivente prospettiva. E vi lasciamo con gli Assedio, anche loro in concerto il 4 marzo Stato e Chiesa, Stefano, all'Ex Snia per lo Stand Your Ground Fest. Terrore, se questa è terra dello status quo. L'azione di disturbo rese il villico cosciente non più sotto missione. Stefano Pelloni. L'azione di disturbo rese il villico cosciente non più sotto missione. Stefano Pelloni. E questi sono gli Assedio con la loro, la voce del clan. Buonanotte.